Crisi in Grecia, l'Europa ringrazia lo scudo. Ma chi è che sta attaccando veramente? Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. The EU is on high alert after Turkish President Recep Tayyip Erdogan said he will no longer stop migrants from breaching Turkey's borders to the west. People try to stay warm, lighting fires, and dense smoke drifts through the air. Ich finde es dennoch inakzeptabel, dass also Präsident Erdogan und seine Regierung. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. I saluti vi arrivano anche da tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Con me ogni giorno ci sono Antonio Tali, Ilaria Sesana, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo e Valeria Bernardi, che è in regia. (349) 238 6666 per SMS e WhatsApp, per domande e commenti sul tema principe di questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Potete commentare anche via Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Twitter, i due account da tenere d'occhio sono Giampaz, ovvero Nessun Luogo 24. Già, il tema principe di questa puntata. Complice anche un grande interesse da parte vostra. Torniamo, ma gioco forza, perché la grande attualità e la stretta attualità ci impongono di riaccendere i riflettori su quella che all'inizio chiamavamo crisi turco-siriana, poi è diventata la crisi turco-siriana-russo-greca e a questo punto sta diventando anche europea. Su tutti c'è il ruolo della Turchia. Questa Turchia che in alcuni ambienti si è vociferato sarebbe giusto addirittura farla uscire dalla NATO, in altri ambienti si è detto neanche per sogno riavvieremo quel procedimento di inclusione, di annessione all'Unione Europea. E la domanda che ci poniamo e che vi pongo anche a voi ascoltatori è: ma è meglio una Turchia fuori dalla NATO e fuori dall'Europa? Cane sciolto, libera di, come battitore libero appunto, di mettere in moto anche ricatti come quello a cui stiamo assistendo, o forse una Turchia imbrigliata anche in quelli che sono i meccanismi di sanzionamento che l'Unione Europea può e a volte ha fatto mettere in moto, diciamo una Turchia dentro l'Unione Europea potrebbe essere un po' più gestibile? Proveremo a dare una risposta a questa domanda, che forse è la domanda in questi giorni, ma prima di tutto andiamo a misurare la temperatura. Vi abbiamo raccontato nelle scorse puntate di Nessun Luogo è Lontano dell'accordo storico firmato dall'amministrazione statunitense e i talebani. Nonostante quell'accordo preliminare siglato a Doha, a cui ha fatto seguito, badate bene, una lunga telefonata, almeno 30-35 minuti, del presidente statunitense Donald Trump con un responsabile dei negoziatori dei talebani, in particolare Mullah Baradar, e il presidente Donald Trump ha detto che è stata un'ottima chiacchierata. Che cosa è accaduto? Lo sapete se ci seguite. Ashraf Ghani, il neo rieletto presidente afghano, non è mai stato presente a questi lunghi colloqui. Cosa si è deciso? Entro circa 14 mesi il ritiro completo delle truppe statunitensi. In cambio i talebani inizieranno degli accordi con Ashraf Ghani per sostanzialmente entrare al governo e hanno dichiarato che non daranno in alcun modo nascondiglio o protezione a gruppi terroristici o jihadisti come Al-Qaeda e ISIS. Fin qua tutto molto limpido, molto chiaro, se non fosse che poche ore fa sono riprese le ostilità in Afghanistan. Secondo varie fonti governative afghane, gruppi di talebani hanno sferrato una serie di attacchi in diverse zone del paese, fra cui la provincia di Helmand, Kunduz, Baghlan, e sarebbero state uccise almeno 16 persone tra soldati e poliziotti afghani, mentre vi sarebbero anche 10 militari afghani presi in ostaggio. La risposta statunitense non si è fatta attendere. Attenzione, diciamo risposta, ma dobbiamo circoscrivere meglio il tipo di risposta. Nel senso che c'è stato un raid statunitense contro postazioni talebane che stavano per attaccare un checkpoint delle forze afghane. La scusa, tra virgolette, da parte dell'amministrazione statunitense era: noi, attenzione, siamo stati costretti a intervenire per preservare l'incolumità del nostro alleato, le forze di sicurezza afghane. Quindi come leggere questo rinnovato attacco, attenzione, dei talebani, ma solo contro le forze di sicurezza afghane. È molto semplice. C'è ancora quella questione irrisolta di almeno 5.000, altre fonti dicono 6.000 prigionieri talebani che gli stessi talebani vorrebbero che il presidente afghano rilasciasse. Questo probabilmente è il grande vulnus che deve essere risolto e sanato prima di procedere a un vero e proprio dialogo politico tra Kabul e i talebani stessi. Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, state già commentando e vi state pronunciando su quella che è la grande questione internazionale al momento e che ci riguarda molto molto da vicino, la spregiudicatezza della politica turca, così l'abbiamo definita evidentemente usando un eufemismo. Tra pochissimo con i nostri ospiti cercheremo di limare e forse cambiare anche lessico per cercare di mettere a fuoco quello che sta accadendo. Detto ciò, ieri vi abbiamo raccontato anche del Super Tuesday, abbiamo cercato di capire meglio cosa c'era in gioco e soprattutto chi poteva emergere come vincitore. Chi ha volato è stato Biden, ha vinto in 9 stati, tra cui il Texas, segue Sanders che ha vinto soprattutto in California e un Bloomberg assolutamente in ombra. Abbiamo raggiunto Marta Dassù, direttore di Aspenia, esperta proprio di questioni transatlantiche, per capire fondamentalmente una cosa. E gli elettori democratici hanno scelto in omaggio alla Realpolitik il candidato, quello più diciamo innocuo, meno innovativo come può essere Biden, e quindi forza della Realpolitik oppure mancanza di coraggio nel non spingere sull'acceleratore con Sanders. Sentite cosa dice là dassù. Ma io credo che sia una scelta realpolitik, come lei dice. Una parte degli elettori democratici ha deciso che Biden è la scelta più sicura per tentare di battere Trump, che è la cosa che realmente interessa a questa parte dei democratici, e quindi c'è stata questa sorta di autentica resurrezione di Biden. Sanders, che sembrava il front runner scontato, non lo è più. La gara a questo punto diventa più limpida, più netta, fra due candidati che esprimono due coalizioni sociali diverse e due diverse visioni di quel che l'America ha bisogno. La lucida fotografia, l'analisi sintetica ma efficace di Marta Dassù su ciò che è accaduto ieri, su cosa ci ha consegnato il Super Tuesday. Non abbiamo nominato il terzo incomodo, Michael Bloomberg, il plurimiliardario, 500 milioni di dollari di investimento e che aveva deciso di presentarsi alle primarie soltanto ieri, appunto per il Super Tuesday. Come è andata? Beh, non benissimo, sentite Dassù. Bloomberg ha fatto una campagna elettorale molto strana, è entrato in gara praticamente solo adesso, ha speso una quantità di soldi, mezzo milione di dollari, per ottenere la vittoria solo nelle Samoa americane, quindi abbastanza un disastro, un uomo freddo, poco empatico, è arrivato probabilmente in gara troppo tardi, io credo, per vincere. Certo, sfata il mito che contino solo i soldi per una campagna elettorale americana, chiaramente non è così. Intanto le agenzie stanno battendo, me l'ha appena segnalata la redazione, Bloomberg lascia endorsement a Biden in questo momento, allora diciamo che forse si può iniziare a dire i giochi sono fatti, se la vedranno Biden e Sanders, e a questo punto aspettiamo gli altri endorsement. Il fatto che Bloomberg lasci, insomma, penso che farà sprecare o investire, se preferite, fiumi di inchiostro agli analisti e ai più attenti osservatori della politica americana, perché quel bel investimento di 500 milioni di dollari per apparire e poi evaporare in maniera così subitanea e così veloce, ma lascia francamente perplessi. Ma è anche il bello, no? I colpi di scena della politica americana che in tante persone appassionano. Quali potrebbero essere le preoccupazioni per Donald Trump all'idea di confrontarsi con Joe Biden? Vi ricordate che da un lato c'è stato un fuoco di fila Dem proprio su Sanders, dall'altro lo stesso Trump per tante volte ha tweetato, insomma, datemi un avversario degno di questo nome, che sia Biden. Sentite Marta Dassù. Sta un po' tremando, perché in effetti lui avrebbe voluto come suo avversario preferito Sanders, che ha addirittura invitato i suoi ad andare a votare nelle primarie aperte. Invece Joe Biden, Sleepy Joe, il Joe Biden sonnolento che lui si aspettava, ha avuto questa risurrezione, e io credo che per Trump non sia effettivamente la competizione ideale, era quello che temeva. Oddio, adesso è presto per decidere che la corsa sia chiusa. Di fatto il Super Tuesday produce una corsa a due. Conteranno anche gli endorsement che potranno ancora arrivare, dove si posizioneranno i soldi di Bloomberg e Carisma, che ancora mantiene almeno in parte la signora Warren. Quindi è presto per dire che siamo fuori dalla competizione democratica. È una gara bipolare in cui un'America più centrista, più tradizionalista si contrappone a un'America rivoluzionaria che probabilmente non riuscirà a prevalere. Il commento di Marta D'Assuma, a questo punto quasi l'abbiamo sentito un'oretta fa, e prima della breaking news, lo ripeto, Bloomberg lascia endorsement a Biden, che a questo punto si fa sempre più forte. Direte voi, personaggio di secondo ordine sulla scena politica americana da oltre 30 anni? Sì, però forse è proprio quello che spaventa Donald Trump. Peraltro segnalo un messaggio che è arrivato nella nostra pagina Facebook pochi minuti fa, di un ascoltatore che era perplesso dall'età anagrafica, no, dei candidati alla presidenza statunitense. Però tant'è, il giovane Buttigieg, lui insomma ancora deve farsi, ha lasciato in tempo utile per non bruciarsi, ma qualcuno vocifera che potrebbe già essere un buon, ottimo vicepresidente. Detto ciò, questa è la chiusura del nostro termometro internazionale. Valeria Bernardi, è il momento di andare in Grecia. We would all do well to remember both in the days to come. I thank Greece for being our European aspida in these times. Così Ursula von der Leyen giusto ieri diceva, dovremmo ricordarcelo tutti anche per i giorni a venire, ringrazio la Grecia per essere il nostro scudo europeo di questi tempi. Ma scudo, aspida, è usato il termine greco, e chi ha studiato anche i lirici se lo ricorderà perfettamente. Quello scudo rimanda a immagini belliche, di guerra, di un invasore. Ma chi sono gli invasori? Quei 20.000 profughi o potenziali profughi che sono assiepati sulle reti lì vicino al fiume di Evros, confine Turchia-Grecia, sono davvero loro la minaccia? Buongiorno, ben ritrovato nel suo luogo lontano Francesco Rocca, presidente della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Croce Rossa Italiana. Presidente, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, grazie per l'ospitalità. Grazie a lei del suo tempo. So che in Grecia sta svolgendo una serie di incontri e tra poco si renderà personalmente conto, come è solito fare peraltro, di quella che è la situazione sul terreno. Quanto la Grecia è pronta a rispondere a questa emergenza e se ha capito, dopo i suoi incontri, se c'è la volontà politica di accogliere queste migliaia di profughi? Perché le notizie che arrivano dal terreno sono drammatiche. Ci sarebbe notizia di un ferito colpito da colpi di arma da fuoco a una gamba dalla polizia greca, uso di lacrimogeni, situazioni che pensavamo di non dover più vedere nell'Europa del 2020. Sì, e sicuramente a mio avviso le parole che avete appena fatto ascoltare non hanno giovato. Cioè, parlare di scudo d'Europa davanti a famiglie, a bambini, a persone anziane, poi sentiremo anche sicuramente la retorica del maschio adulto, però sì, insomma, l'abbiamo già sentita. Parlare di scudo, parlare in questi termini, io lo trovo veramente fuorviante, per utilizzare un termine gentile, perché qua abbiamo davanti una crisi umanitaria provocata, però di questo non si parla. Nessuno dice che qui gli esseri umani sono stati trattati come strumento politico, come strumento di pressione politica, e questo anche è un aspetto inquietante. La società greca sicuramente risente di questo, risente di una crisi economica che ormai è protratta nel tempo, e di un'assenza di politiche europee di distribuzione. Insomma, quello che in questi anni abbiamo vissuto noi operatori umanitari, abbiamo visto con i nostri occhi quello che insomma l'Unione Europea sulla Grecia ha fatto veramente poco. Sì. Questo è, quindi oggi se ne pagano le conseguenze, perché la società civile, l'impressione che io ho è quella che comunque sì, è estremata e quindi poco accogliente. Sì, la voce che sentite è quella di Francesco Rocca, in diretta dalla Grecia, presidente della Federazione Internazionale di Croce Rossa. Ennesima emergenza, di nuovo flussi di migranti pronti a bussare le porte d'Europa ancora una volta, come ha sottolineato il presidente Rocca, ma anche David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo, giusto ieri diceva: se l'Europa avesse riformato il regolamento Dublino probabilmente non saremmo arrivati a questo punto. Però Presidente Rocca, al di là dell'inazione o della mancanza di strategia a lungo termine della politica europea, qua abbiamo un problema stringente. L'Europa ha promesso già aiuti finanziari, ha promesso anche maggiori pattugliamenti con Frontex, per esempio, tutti rivolti alla Grecia. Voi come organizzazione umanitaria che cosa chiedete da un lato all'Unione Europea, ma dall'altro anche alla Turchia, perché non dobbiamo dimenticare che è stata una volontà politica di Erdogan addirittura a usare autobus gratis per portare i migranti e far pressione sulle reti greche? Guardi, parto dalla Turchia. Io credo che da un lato alla Turchia ha fatto solo una richiesta di non usare gli esseri umani come strumento di pressione sull'Europa, sì, per altri fini. Questa è l'unica richiesta, perché se guardiamo alla capacità di accoglienza della Turchia bisogna soltanto dire grazie, sì, davanti ai milioni di profughi che comunque quel paese sta ospitando. Sì. 3.600.000 profughi. Esatto, quindi voglio dire, non possiamo parlare di un paese che non abbia dimostrato generosità nell'accogliere i profughi. Però questo capitale di gratitudine non va dilapidato con delle scelte che comunque portano a ridurre l'essere umano a essere soltanto una merce di scambio. Questo è quello che poi rischia di dipendere quello che sta accadendo in questo momento. Sì. Noi quindi quello che chiediamo è che non accada questo. Alla Grecia di lasciarci operare, di darci accesso, questo è quello che sto discutendo con le autorità greche, sto preparando con la Croce Rossa greca un piano di contingenza. Ho sentito nelle ultime 24-36 ore diversi colleghi da Croci Rosse europee pronti ad aiutare, pronti a mandare aiuti, quindi adesso verificheremo quello che concretamente è fattibile per aumentare la nostra operatività nel paese, ma mi sembra che su questo comunque ci sia una buona rispondenza, un'attenzione da parte delle autorità greche, che comunque si rendono conto che non si possono lasciare migliaia di persone in balia di se stesse, sì, senza una risposta. Quindi, Presidente, mi sembra di intuire dalle sue parole che ci potrebbe essere una volontà da parte greca di aprire le frontiere e accogliere qualcuno dice 20.000 addirittura già assiepati. Io adesso non mi sento di sbilanciarmi fino, sì, a questo punto. Sicuramente quello di lasciarci operare, noi quello che chiederemo se anche ci sarà una situazione difficile nella zona, diciamo, la cosiddetta terra di nessuno, sì, tra i due paesi, di poter operare in serenità, di poterci prendere cura delle persone più fragili, delle persone anziane, perché questo è quello che ci preoccupa all'interno del confine di terra. Certo. Per quello che riguarda invece la parte dell'isola, è lì io credo che mai sia intenzione quella di aprire nuovamente dei campi. Adesso però staremo a vedere, perché comunque anche la popolazione di Lesbos che è stremata, e in questi giorni abbiamo visto anche alcune bande paramilitari prendersela con i rifugiati che sono ospitati sull'isola, non si può pensare di far arrivare in un'isola che ha circa 20.000 abitanti un numero superiore agli stessi 20.000, perché ormai più o meno questa è la situazione. È ovvio che questo ha un impatto sulla comunità locale devastante, quindi credo che le autorità greche di questo se ne siano rese conto, e io mi auguro che a breve avvenga una deflazione. Grazie mille a Francesco Rocca, presidente della Federazione di Croce Rossa Internazionale e Croce Rossa Italiana. Buona giornata, presidente, buon lavoro e alla prossima. Grazie anche a voi, grazie. La Commissione dell'Unione Europea ha lanciato questo piano europeo, ve l'accennavo prima. Se andiamo a vedere i numeri, sarebbero stati già stanziati 350 milioni di euro oltre agli asset di Frontex, che in realtà va a pescare dalle diverse polizie internazionali. Io mi chiedo, ma è un'opinione mia e come al solito la prendete e la buttate via tranquillamente, l'impegno di Frontex a questo punto che senso abbia di fronte al disastro umanitario? 20.000 persone, potenziali richiedenti asilo che premono sulla rete ormai, che sono stati mandati dalla Turchia, che hanno vissuto momenti anche drammatici e sono a tutti gli effetti uno strumento politico. Beh, forse sarebbe il caso anche di un ripensamento in questo senso. Detto ciò, tra pochissimo torneremo al cuore del problema, se preferite, quel cuore geopolitico di tutto ciò che sta accadendo. La Turchia è sui mille fronti. Prima però leggo un po' di messaggi, ne sono arrivati parecchi al 349-238-6666. Le sanzioni non servono perché pagano solo i cittadini, bisognerebbe mettere in condizioni di non nuocere questi personaggi, assetati di potere personale, così in Turchia, Stati Uniti, Nord Corea, Iran, Egitto e altri in Italia. Così un ascoltatore. Quando i cittadini greci respingono un barcone a Lesbo non sono pericolosi fascisti, anzi sono scudo d'Europa. E quando al posto della Turchia c'è Malta e al posto dei cittadini greci c'è Salvini, c'è una pericolosa deriva fascista. Così si chiede un ascoltatore, stigmatizzando evidentemente le parole di Ursula von der Leyen. Qualcuno va già al punto: se la Turchia venisse cacciata a calci dalla NATO diventerebbe uno Stato nemico, si potrebbe colpire sia economicamente che in mano militari, la Russia non potrebbe intervenire in alcun modo. Ci andiamo, tra pochissimo. Questo è un po' il senso della puntata di quest'oggi. Dicevamo, la politica di Erdogan non si fa scrupoli di usare migliaia e migliaia di profughi, potenziali richiedenti asilo per... come strumento a tutti gli effetti politico di pressione sull'Europa, ma non soltanto. Vi abbiamo raccontato delle mani del sultano, come qualcuno lo chiama, di Erdogan, che si allungano sul Mediterraneo, gli accordi con la Libia, la discesa, i boots on the ground in Libia, poi la presa di Idlib. Peraltro continuano scambi ferocissimi nella zona di Idlib con le truppe di Assad, due militari morti ieri, un altro jet abbattuto, droni turchi abbattuti. Insomma, la situazione è particolarmente complessa. Ripeto, su tutto spicca un'evidente volontà egemonica, o quantomeno una volontà da parte di Ankara di esercitare pressione, evidentemente anche sull'Unione Europea. Ma scherziamo, mi fa eco un ascoltatore, la Turchia dentro l'Unione Europea sarebbe il colpo di grazia per questa istituzione. Ricordatevi dell'intervista fatta a Gheddafi riguardo all'ingresso della Turchia in Europa, così Davide, che evidentemente si dissocia da quella tesi che secondo alcuni invece sarebbe vincente. Accogliamo la Turchia. Peraltro attenzione, perché non meno di un mese e una settimana fa il ministro degli esteri turco Cavusoglu ha scritto una lettera a Josep Borrell, fra gli altri, chiedendo di riaprire i tavoli per l'adesione all'Unione Europea, adesione che è iniziata parecchi anni fa, ma ancora vi sono parecchi criteri che devono essere rispettati per poi intavolare una qualsiasi tipo di discussione. In tutto ciò vanno ricordati quei quasi 6 miliardi di euro stanziati e in parte già accordati alla Turchia per la gestione dei flussi migratori, che al momento però sta diventando un vero e proprio dossier a parte e da aprire. Allora, facciamo una piccola pausa, l'informazione finanziaria, e poi vi presenterò il primo ospite con il quale cercheremo davvero di capire le ambizioni della Turchia, i suoi rapporti con la NATO e tutta quella lunga parentesi, famosa ormai o famigerata, dite voi, sui missili S-400. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano, dopo aver fotografato quella che è a tutti gli effetti un'emergenza umanitaria al confine fra Grecia e Turchia, andiamo al cuore del problema. Il cuore del problema è strettamente politico, di politica internazionale. Un Erdogan particolarmente spregiudicato, che negli ultimi anni ha messo la quinta, potrebbe dire qualcuno. Da un lato il dossier libico che ha preso in mano, stando dalla parte del Sarraj di Tripoli e fornendo quell'aiuto militare che nessun altro paese dell'Unione Europea aveva mai osato fare. Dall'altra parte, in Siria, oltre alla fascia di sicurezza, quella a cui dovrebbe destinare una parte dei profughi siriani, le aspirazioni del sultano, sto sempre citando una vecchia copertina dell'Economist, si sono allargate, perché adesso c'è in corso una vera e propria offensiva su Idlib contro le forze e le liste di Bashar al-Assad supportate dall'aviazione russa, e sta creando parecchie tensioni anche questo dossier. Domani peraltro Erdogan volerà a Mosca da Putin, e da molti viene vista come una vittoria di Putin. Si legge in sostanza la cosa così: caro Erdogan, se vuoi parlare con me devi venire a casa mia. Però è innegabile che per il momento l'esibizione muscolare di Erdogan stia creando un po' di mal di pancia a tutti in Europa, soprattutto col problema dei profughi, quei 20.000 che Francesco Rocca, presidente della Federazione Internazionale di Croce Rossa, ha ben fotografato. Proviamo a parlare di Turchia in maniera più stretta e lo facciamo, ed è un gradito ritorno, con l'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, è già stato anche segretario generale ad interim e vice segretario generale della NATO e adesso è il presidente del NATO Defense College Foundation. Buongiorno ambasciatore, ben ritrovato. Buongiorno a lei, buongiorno. Allora, io ho ricapitolato un pochino quelle che sono le mire espansionistiche di Ankara. Lei che idea si è fatto? Che cosa vuole veramente Erdogan? Ma guardi, credo che dobbiamo stare un po' attenti a isolare le cose, perché in questo momento quello che noi vediamo sulle prime pagine dei nostri giornali è che Erdogan sta scatenando una specie di tempesta umanitaria, mandando profughi in Europa, va bene? Questa è una parte del tema e ci interessa. Sì. In realtà quello che Erdogan chiede all'Europa, mi sembra anche abbastanza esplicitamente, oltre che alla NATO, è un aiuto in Siria. Allora, in effetti, noi anche lì dobbiamo stare un po' attenti, perché è vero che le forze turche sono in territorio siriano e non ci dovrebbero essere, e che questa non è una bella cosa, ok. Detto questo, se noi guardiamo l'interesse generale, la storia, diciamo, delle rivendicazioni curde verso la Turchia e viceversa è una storia secolare, sì. Quindi, come dire, non è un colpo di teatro che i turchi vadano nel nord della Siria, è una controversia su cui possiamo avere le nostre opinioni, ma non abbiamo il tempo per discuterne, che va avanti da moltissimo tempo rispetto tra la Turchia e il nazionalismo curdo, va bene? Allora, quello che succede è che l'Europa, nella sua, in questo momento, scarsa visibilità internazionale e voglia di pigliarsi responsabilità, la Libia, Docet, in realtà in Siria si è tenuta fuori da tutto. Allora, quello che Erdogan sta dicendo, praticamente, sono in una situazione difficile, ho dei grossi problemi, perché mi rendo conto che non è semplice in Siria, eccetera, eccetera, per favore datemi una mano. Questo è un po'. E chiaramente l'altra parte della minaccia, beh, state attenti, perché se no anch'io posso farvi male. Abbastanza chiaro. Mi permetto solo sulla questione curda, chiedo scusa. Mi sembra che sia usato efficacemente anche come alibi il fatto di allontanare la componente curdo-siriana che potrebbe avere legami col PKK invadendo o annettendo parte della Siria. Qua stiamo assistendo, spingendosi fino a Idlib, a, come dire, a ispirazioni egemoniche sul territorio siriano. Non è che, ambasciatore, Erdogan ha paura di un Assad riconsolidato dalla stampella russa? Tra l'altro, diciamo la verità, Erdogan ha cambiato più volte posizione rispetto ad Assad, no? Quindi non è anche lì che ci sia una linea coerente, sì. Però certamente teme una forte Siria con l'appoggio russo e ha in qualche maniera impegnato il proprio prestigio personale anche verso la sua opinione pubblica interna, dicendo che ci avrebbe pensato lui a mandare l'esercito nella Siria del Nord e praticamente a liquidare le minacce degli indipendentisti curdi, questo è un punto. Sì, peraltro è utile ricordare che a Idlib vi sono parecchie formazioni jihadiste, su tutte quella che è la Jabhat al-Nusra 2.0, quella rivestita, quella affiliata ad Al-Qaeda, infilata nella lista dei terroristi che ha cercato di farsi un'immagine, e detto ciò ci sono anche tantissimi civili, gli ultimi dati parlavano da 950.000 sfollati interni, si potrebbe arrivare a 1.500.000 in tempi brevissimi. Detto ciò... abbiamo parlato anche dell'ultima trasmissione. Assolutamente, assolutamente. Detto ciò... Ambasciatore, le faccio sentire qual è l'opinione di Mark Pierini, che è docente al Carnegie Europe, è stato ambasciatore europeo in Turchia, fra l'altro conosce molto bene quel paese. Gli abbiamo chiesto qual è la strategia della Turchia nei confronti dell'Unione Europea e della NATO. L'ascoltiamo insieme e poi magari la commentiamo. La percezione della strategia della Turchia degli ultimi anni è legata prima di tutto alla situazione interna, dove il presidente Erdogan ha costruito un sistema di potere autocratico che rende la prospettiva di adesione all'Unione Europea del tutto irrealistica, dato che in Turchia non c'è più uno Stato di diritto, non esiste più un bilanciamento dei poteri, né una stampa libera, né una società civile dinamica. Questo è il primo punto. Ma sullo sfondo di questo cambiamento politico c'è il sogno dei dirigenti turchi di tornare a essere una potenza autonoma, una potenza di mezzo, una potenza cerniera con la quale tutto il mondo, dalla Russia alla Cina, dal Golfo fino all'Unione Europea e gli Stati Uniti, deve fare i conti e con la quale bisogna parlare perché questa potenza è favorita dalla geografia ed è allo stesso tempo anche una potenza economica e una potenza militare. Quindi tutto quello che la Turchia ha fatto recentemente dall'acquisto del sistema missilistico russo al considerevole rafforzamento della produzione militare, mi riferisco a sottomarini, portaerei, veicoli blindati, eccetera, va in questo senso, verso il sogno della potenza di mezzo, un sogno che è centrale nella politica del signor Erdogan. Qui è, je crois, très, très central dans la politique de monsieur Erdogan. Il sogno della potenza di mezzo, le parole di Mark Pierini, docente al Carnegie Europe, ex ambasciatore europeo in Turchia, conosce molto bene quel paese. 349-238-6666 per i vostri commenti e le vostre domande. Siamo con l'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo. È d'accordo con questa analisi? Si mira sostanzialmente a avere un ruolo centralissimo, quel ruolo di cerniera che spesso abbiamo sottolineato, ma non è che la politica di Erdogan sta un po' tirando troppo la corda, non potrebbe suscitare, come dire, una reazione anche da parte, per esempio, dell'Unione Europea? Ma guarda, Pierini conosce bene la Turchia perché è stato rappresentante, non ricordo se del sistema esterno europeo, della Commissione, comunque dell'Unione Europea, sì. È corretto in Turchia. Fino a un certo punto condivido la sua analisi, la condivido nel fondo, dove lui forse esagera è un po' su questa ambizione turca a diventare egemone, che c'è, intendiamoci, però come dire arriva fino a un certo punto, perché noi abbiamo già visto in altre occasioni che diciamo la bocca di Erdogan, se posso usare un'espressione un po' strana, sì, è più grande della sua pancia, non riesce a digerire tutto quello che lui vorrebbe mangiare, tant'è vero che uno slogan dei primi anni di Erdogan era zero problemi con i vicini, non so se qualcuno, certo, tra gli spettatori, tra gli ascoltatori lo ricorda, zero problema con i vicini, e invece non siamo certamente lì, voglio dire, no? Questo siamo sicuri. Detto questo, come dire, la Turchia è un pochino, l'abbiamo detto anche quando ci siamo sentiti l'ultima settimana, un po' too big to fail, è un paese molto importante ed è un paese a cui noi conviene avere dei buoni rapporti, se è possibile, se è decente, diciamo, sul piano morale e sul piano degli interessi. Credo che questo sia possibile in realtà, perché in fondo quello che è successo la settimana scorsa è che l'aviazione o russa o siriana, non sappiamo bene, ma insomma è più o meno l'equivalente, ha ucciso diverse decine di soldati turchi, voglio dire, dando una enorme umiliazione a Erdogan, che ha avuto delle ripercussioni all'interno del paese negative sulla sua immagine e l'opinione pubblica. Quindi, come dire, sì, vuol fare il sultano, però poi non è così facile fare il sultano. No, anche perché, ambasciatore, mi permetto di interromperla, perché bisogna poi assumersi le responsabilità di questo neo-ottomanesimo, perché poi, come alcuni ascoltatori scrivono, obiettivo della Turchia tenere piedi in 2, 3, 4, 5 scarpe, alludendo ai tanti dossier aperti, c'è quello energetico nel Mediterraneo, c'è la Libia, adesso c'è la Siria, 55 soldati turchi uccisi, e anche mezzi e armamenti sono uno scotto che per il momento Erdogan paga, ma che prima o poi dovrà anche sul piano interno rendere conto alla popolazione, al Parlamento, benché goda di un ottimo appoggio, e diciamo che le forme di dissidenza in Turchia spesso, come dire, evaporano magicamente. La voce che sentite è quella dell'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo. Tra pochissimo, ambasciatore, le farò sentire ancora una volta la voce di Mark Pierini, perché vorrei approfittare della sua competenza, ambasciatore, perché c'è una sigla che forse ben consacra, cristallizza quella che è il grande paradosso di questa Turchia. Una Turchia che un mese fa ha chiesto riapriamo la procedura di adesione all'Unione Europea. Una Turchia che è un grande contributore budget NATO, se andiamo a vedere quelle che sono quella soglia del 2%, l'Italia è lontanissima, per esempio, gli Stati Uniti si sono lamentati. Membro della NATO che però, attenzione, c'ha una batteria di missili che si chiamano S-400. Tra pochissimo, prima la viabilità. Nessun luogo è lontano. Il sogno di Erdogan, nelle parole di Marc Pierini, un pochino più pragmatico, forse meno elegico se preferite, all'analisi dell'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, molto più legata coi piedi per terra. Certo, forse fa specie parlare di piedi per terra quando si parla di batterie missilistiche. S-400 è la sigla che vi dicevo, che è stata quell'acquisto da parte di Ankara, acquistati dalla Russia, che ha fatto sobbalzare un po' di persone in giro per il mondo sulla sedia. Perché? Perché è un sistema fondamentalmente anti-NATO e un paese membro della NATO non dovrebbe, anche a logica, dotarsene. Sentite cosa dice Marc Pierini e poi lo commentiamo con l'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo. L'achat de missiles russes par la Turquie découle d'un dialogue qui a... L'acquisto del sistema missilistico russo da parte della Turchia è il culmine di un dialogo tra il presidente Erdogan e il presidente Putin, che è cominciato immediatamente dopo il fallito colpo di Stato del luglio 2016. Nella fase subito successiva a quel tentativo di colpo di Stato, l'Est e l'Ovest insieme hanno espresso il loro sostegno a Erdogan, al governo, al Parlamento e a tutte le istituzioni turche. Gli occidentali però hanno redarguito Erdogan dicendo: attenzione alle misure che adotterete adesso, rispettate lo Stato di diritto, mentre la Russia si è limitata a manifestare il suo sostegno senza dire nulla sullo Stato di diritto. Questo ha creato una sorta di terreno favorevole al dialogo. E ciò che è successo dopo è che nel clima di paura seguito al colpo di Stato, il presidente turco ha voluto rafforzare le difese del suo paese. La Russia, da parte sua, ha colto l'opportunità di equipaggiare la Turchia con razzi antimissile, che sono senza alcun dubbio un'operazione diretta contro la NATO. La Russia ha da tempo una politica ostile alla NATO, ma in questo caso ha trovato un'opportunità, direi, irresistibile di sfruttare le paure del potere turco e di installare nel cuore del suo sistema di difesa, ossia nelle forze aeree, dei missili molto sofisticati. Questo è un enorme problema per la NATO, che ha delle conseguenze sul programma F-35 americano, tanto per cominciare. Ma si tratta anche di un grandissimo colpo diplomatico e politico della Russia. La Russia ha piazzato i suoi missili e il suo personale militare nel cuore della difesa aerea di un importante paese della NATO. Della difesa aerea di un paese importante, l'OTAN. L'analisi di Marc Pierini, docente al Carnegie Europe, ex ambasciatore europeo in Turchia. Ambasciatore Minuto Rizzo, è d'accordo con questa analisi? Si è inserito un cavallo di Troia all'interno della NATO, così? In parte, i dati di fondo sono quelli. Resta il fatto che quando ci fu nel 2016 il colpo di Stato militare fallito contro Erdogan, lui ebbe una reazione molto negativa nei confronti dell'Occidente, degli Stati Uniti e dell'Europa, che ha accusato di non averlo difeso, sì, anzi quasi di avere voluto la sua caduta. No? In questo caso la Russia è stato l'unico paese che, non rischiando niente naturalmente, si è affrettata a dare appoggio ad Erdogan e in qualche maniera viene pagata attraverso questo acquisto di materiale sofisticato, l'abbiamo appena detto, missili eccetera eccetera. Che questo cambi completamente però il sistema difensivo turco non è vero. La Turchia rimane comunque solidamente in tutto il resto, diciamo, armata con equipaggiamenti militari che vengono dall'Occidente, su questo non c'è dubbio, voglio dire, no. Quello che è anche vero nell'analisi che lei ha fatto precedentemente è che la Turchia ha troppe ambizioni contemporaneamente e non riesce a, come dire, soddisfarle tutte, e questo è evidente sempre di più. Sì. Quindi, come dire, è in un momento di debolezza la Turchia, tant'è vero che ha chiesto l'aiuto della NATO. La NATO, sì, si è riunita, gli ambasciatori, pochi giorni fa, e hanno espresso solidarietà alla Turchia. Perché? Non è che la gente sia stupida, voglio dire, in fondo la Turchia è criticabile da tanti punti di vista, però resta sempre un paese importantissimo, fa un po' del lavoro sporco che forse dovremmo fare noi, diciamoci anche questo, tra parentesi, e tutto sommato è meglio averla dalla nostra parte che averla contro. E chiarissimo. Quindi in realtà il Consiglio Atlantico ha preferito, come dire, dare, come dire, un messaggio di solidarietà alla Turchia e dichiarare che non si deve fare, che non è giusto che protesti, che si arrabbi, eccetera, eccetera, per il fatto che degli aerei stranieri hanno ucciso dei suoi soldati, come dire. Certo. Il messaggio politico è quello. Certo, però diceva un messaggio politico, mentre proprio ieri davamo la notizia dell'inviato speciale per la crisi siriana, Jeffries, americano, che ha promesso munizioni sostanzialmente ai turchi. I turchi stessi che hanno chiesto i missili Patriot agli Stati Uniti. Quindi da un lato corroborerebbe la sua tesi, ambasciatore, che di una Turchia che sul fronte siriano è in difficoltà, e dall'altro però viene da dire, insomma, e alcuni ascoltatori lo scrivono, attenzione, è stato un ingresso che ha violato il diritto internazionale, quello in Siria. Lei la chiamerebbe più un'invasione, un'annessione o una autodifesa preventiva? Ma guardi, io la metterei sull'autodifesa preventiva / l'invasione locale, diciamo, no? Perché la Turchia non ha mai detto che vuole occupare la Siria o altro. È quella zona di confine, c'è anche una delimitazione che non ricordo se di 20 chilometri o di 25 chilometri. Sì, devono essere 30-35 chilometri, adesso sono diventati parecchi, ecco, diciamo. Esatto, quindi questa, quindi io non sto assolutamente, anche distinguiamo le cose per gli ascoltatori, io non sto assolutamente difendendo la Turchia e il fatto che l'esercito turco si trovi in territorio siriano, no. È una cosa che non si deve fare e non si doveva fare. Quello che sto dicendo però è che nell'interesse complessivo dell'Occidente, perché noi da questo punto di vista dobbiamo mettere, compresa l'Italia per inteso, a noi tutto sommato conviene dare una mano a questo signore, il quale in questo momento è in una grave crisi, insomma, e ha problemi di aiuto, anche di isolamento internazionale, sperando che questo poi serva, come dire, a compensarlo sul piano, diciamo, dei diritti umani e tutte le altre storie, e che si riavvicini di più alla NATO. Sì. Perché infatti negli ultimi anni, mi pare che lei lo abbia anche detto un po' tra le righe, negli ultimi anni sembra che sia più la Turchia che si approfitti della NATO, per non la NATO che aiuti la Turchia. Diciamo che c'è un atteggiamento molto da battitore libero, diciamo, questa spregiudicatezza che a volte va a sovvertire anche quei non scritti protocolli diplomatici e di relazioni internazionali che tutti invece si aspetterebbero, da ciò anche lo scalpore che hanno destato le ultime mosse di Erdogan. Ringrazio tantissimo l'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, presidente del NATO Defense College Foundation, già segretario generale di Interim e vice segretario della NATO. Ambasciatore, buona giornata, buon lavoro. Buona giornata a lei, grazie. Torno a voi ascoltatori, siamo in chiusura, abbiamo un po' di minuti, quindi vi do spazio e voce. Interessante il messaggio di Alessandro. Perché si pagano 6 miliardi di euro per far gestire l'immigrazione a un attore che usa il ricatto come modalità? Perché non usare quei soldi per gestire l'immigrazione in casa Europa? Beh, era uno dei punti che sottolineavamo proprio qualche mese fa da questi stessi microfoni, e ci chiedevamo, al di là della opportunità di una gestione da parte di un terzo della questione migratoria, quanto è conveniente nel lungo termine mettersi in una posizione di ricatto nel momento in cui si paga per svolgere quello che l'ambasciatore Minuto Rizzo chiamava il lavoro sporco, quindi gestione di flussi migratori a un soggetto terzo, e si inizia a pagare? Beh, si inizia a pagare, ma non si sa mai quando si finirà di pagare, e questo, ahi noi, è il caso in cui si trova in questo momento l'Europa di fronte a questa Turchia. Allora, non c'è tempo per farvi sentire anche un'ultima parte dell'intervista che Antonio Tali ha realizzato con Mark Pierini, però vi posso, come dire, anticipare quella gran parte dei contenuti, perché voglio dare un po' di spazio a voi, ai vostri commenti e alle vostre domande. Lo studioso Mark Pierini diceva che in realtà questo acquisto da parte della Turchia del sistema missilistico S-400, che comprende anche sistemi radar, lui puntualizzava molto questo aspetto di monitoraggio, in realtà ha creato in alcuni ambienti della NATO una certa irritazione rispetto alla presenza di alcuni ufficiali turchi in alcuni dossier, in alcuni teatri. Stiamo cercando evidentemente di verificare quanto sia opportunistica, quanto sia veramente legato a una volontà NATO questa presunta esclusione, e ve ne daremo conto certamente. Torniamo però alla domanda principe: è meglio una Turchia cane sciolto, battitore libero, al di fuori di un'Unione Europea e NATO, oppure è meglio riavvicinarci e provare a rimettere in piedi quel processo di adesione all'Unione Europea, e non nemmeno menzionare la possibilità remota, peraltro, di una cacciata da parte della NATO della Turchia, anche perché dal punto di vista del diritto costitutivo precipuo della NATO non si può fare. Studiando quelli che sono i trattati della NATO stessa, abbiamo scoperto che l'unico modo per estromettere un paese membro della NATO è che il paese stesso si autoestrometta, cioè fondamentalmente dica: gentili signori, il patto atlantico io non ci credo più e quindi me ne vado, a meno di una riforma del regolamento stesso della NATO, e capirete bene che in questi mesi non è decisamente la priorità. Erdogan è così cinico da comprare armamenti russi scontando qualche vittima tra i suoi soldati da parte degli stessi russi? Allora, in realtà diciamo che i contatti fra russi e turchi sul suolo siriano, tutti e due se ne guardano bene dal farlo, addirittura durante gli ultimi attacchi si diceva che ci fossero state telefonate di avvertimento. Quello che invece è una collisione a tutti gli effetti di prima linea, che è costata almeno 55 morti sul fronte turco, sono le truppe di Ankara con quelle di Bashar al-Assad. Un altro ascoltatore risponde a quella provocazione che ho trovato molto interessante, quella del ma perché pagare 6 miliardi di euro quando potremmo farlo noi? Pensate a che politica di accoglienza l'Europa, un'entità politica e organizzata di 27 stati membri, 500 milioni di persone, potrebbe con 6 miliardi di euro fare su 20.000 profughi. No, l'Europa ha preferito appaltare a un soggetto terzo questa gestione, ma tant'è. Dicevo, un ascoltatore risponde alla intelligente provocazione del precedente ascoltatore: si preferisce farlo gestire alla Turchia in quanto non hanno tutte le lungaggini burocratiche, e penso sia ironico, tra parentesi diritti umani, delle leggi europee, un po' come le delocalizzazioni in Cina della manifattura. Peraltro mi permetto di sottolineare, gli ultimi secondi, siamo quasi in chiusura e fra poco risuonerà l'ordine di Valeria Coronello Bernardi, così ormai dobbiamo ribattere. No, dicevo, mi permetto di sottolineare quella che è stata l'ultimo invito da parte della Turchia stessa di riaprire il processo di adesione. Da ultimo, tutti quelli che sono i legami economici fortissimi anche dell'Italia in Turchia. Quindi forse la domanda era: meglio Turchia dentro o Turchia fuori? Sinceramente io non ho una risposta. Detto ciò, la parola? Che prelude ai titoli di coda, ai saluti e ringraziamenti a voi che siete stati all'ascolto, a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. L'appuntamento è per domani, ore 16. Intanto un saluto da Gianpaolo Musumeci.